Baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Gianfranco Fini denuncia i troppi silenzi del Vaticano al tempo delle leggi razziali. Ma non è che perse le speranze di sostituire Berlusconi, ora cerca di sostituire Veltroni? Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Vi ho così descritto il modo col quale il vignettista Staino commenta le clamorose dichiarazioni di Gianfranco Fini. La Chiesa non si oppose alle leggi razziali, dichiarazioni, parole che hanno già provocato molte reazioni. Vedremo nella Chiesa stessa e anche un dibattito, ma abbiamo voluto partire con Staino, con un po' di ironia a proposito del fatto che forse quelle parole potevano venire da sinistra. Ecco, e infatti vedremo che molti esponenti della sinistra esprimono consenso, forte consenso alle parole di Gianfranco Fini. Per esempio, sul quotidiano La Repubblica, Miriam Mafai così inizia il suo pezzo. Padre Santo, come figlia del popolo ebraico, che per grazia di Dio è da 11 anni figlia della Chiesa Cattolica, ardisco esprimere al padre della cristianità ciò che preoccupa milioni di tedeschi. Per anni i capi del nazionalsocialismo hanno predicato l'odio contro gli ebrei. Ora che hanno ottenuto il potere e hanno armato i loro seguaci, il seme dell'odio si schiude. Così, scrive Miriam Mafai sulla Repubblica, l'incipit di una lettera che Edith Stein inviò al Papa nel 1933 per denunciare le violenze che in Germania venivano consumate contro gli ebrei e chiedere una parola di denuncia da parte del Vaticano. Quella parola non venne, scrive Miriam Mafai, e la stessa Edith Stein, figlia del popolo ebraico, ma convertita al cattolicesimo dopo pochi anni, finirà i suoi giorni in un campo di sterminio nazista. La Chiesa non parlò quando in Germania cominciò la persecuzione contro gli ebrei e non parlò nemmeno quando nel 1938 in Italia vennero promulgate le leggi con le quali si cacciavano i bambini e i professori ebrei dalle nostre scuole e dalle università. Si vietava agli ebrei di esercitare i loro commerci e le loro professioni, persino di possedere e ascoltare la radio. Solo nel 1944, dopo la feroce razzia del ghetto e la deportazione degli ebrei romani nei campi di sterminio in Germania, solo allora il Vaticano si adoperò per offrire assistenza e rifugio ai superstiti. Questo leggiamo nell'articolo di Miriam Mafai sul quotidiano La Repubblica, quindi altrettante denunce simili per molti versi a quelle fatte da Gianfranco Fini che stanno creando tante polemiche. Il quotidiano La Repubblica apre invece la prima pagina, la notizia più importante, con il terremoto. Torneremo ampiamente su questo tema, il terremoto che sta investendo il Partito Democratico, il terremoto giudiziario, tanto da parlare di nuova Tangentopoli. E scrive La Repubblica: Basilicata, tangente sul petrolio, coinvolto un deputato del Partito Democratico. Ed è Ezio Mauro, direttore del quotidiano La Repubblica, a scrivere. Scriccano: nessuno può pensare onestamente che il PD sia un rifugio di faccendieri, ma non c'è alcun dubbio che se nel paese il problema della corruzione è riesploso, nel confine critico tra la politica e gli affari, i democratici si mostrano oggi vulnerabili e permeabili al malcostume nella loro periferia assessorile, mentre le speranze e le attese che accompagnarono la nascita del PD erano ben diverse. Scricchiano entrambi gli elementi della coppia con cui il PD presentò la sua novità: la moralità pubblica, l'innovazione politica È difficile infatti non legare le notizie che arrivano dalle procure con la debacle elettorale in Abruzzo e soprattutto, scrive Ezio Mauro sulla Repubblica, con l'astensionismo di sinistra che l'ha preparata, dando spazio solo a Di Pietro, ambiguo alleato concorrente. L'unico rimedio è uno strappo di innovazione che faccia piazza pulita di vecchi apparati, di metodi ancora più vecchi. Questo è l'incitamento che viene quindi dal quotidiano della Repubblica, che da sempre è stato attento e in qualche modo ha appoggiato le svolte di Walter Veltroni. Il quotidiano della Repubblica ha anche affidato a Adriano Sofri un commento invece sulla decisione del ministro Sacconi, che si occupa adesso anche di Englaro, fare quella direttiva che poi impedisce alla sentenza decisa dai tribunali di procedere sul caso Englaro, di Eluan Englaro. Scrive Adriano Sofri: il cerchio dei bracconieri si stringe addosso al corpo di Eluan Englaro. Ora il ministro Sacconi a rovesciare un'estenuante e definitiva trafila di sentenze con una circolare imperiosa a tutte le regioni, un UCAZ per l'esattezza, perché nessuna struttura sanitaria, né pubblica né privata, sospenda mai l'alimentazione artificiale a una persona diversamente abile, cioè a Eluana, perché è di lei che così si tratta. E scrive ancora Adriano Sofri: peccato, Sacconi è un ministro del PDL che non rinnega il proprio passato di socialista, lo ridicolizza, del resto è l'ultimo arrivato nella muta arrabbiata che bracca quella famiglia italiana, che la butta a spintoni da un tribunale all'altro, che la caccia ululando da una regione all'altra, che le nega il silenzio rispettoso e doloroso al quale aveva da sempre umanamente diritto e se l'è conquistato legalmente attraverso un calvario giudiziario accompagnato da una pubblica gogna. Scrive ancora Sofri: la legge non la fa Sacconi, ha protestato il legale della famiglia. Già, ma Sacconi la disfa, o almeno ci prova, non costa niente. Ci provano negli stessi giorni nello stesso Ministero della Pubblica Virtù con la RU 486. Espedienti e spregiudicatezza sembrano diventare l'armi di un vittimismo oltranzista che pretende per sé l'amore assoluto per la vita, avventandosi contro le particolari e fortuite virtù altrui. Ecco, questo dice Adriano Sofri a proposito della quasi una sentenza di Sacconi che, come dire, si mette come ostacolo alle sentenze, quelle vere, della magistratura. I silenzi di un paese intero, così Pierluigi Battista sul Corriere della Sera in qualche modo replica alle parole di Gianfranco Fini, di cui ci siamo già occupati nella prima parte della segna stampa. La non reazione della Chiesa, certo, scrive Pierluigi Battista, ma nel 38, negli anni successivi, non reagì, non parlò, non si oppose nessuno. Il silenzio imbarazzato o accondiscendente nei confronti delle leggi razziali promulgate dal fascismo coinvolse cattolici e laici, conservatori e progressisti. Le eccezioni furono rarissime. Gli ebrei vennero lasciati soli come il padre di Giorgio nel giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani, iscritto al fascio di Ferrara, volontario nella prima guerra mondiale. E Pierluigi Battista scrive ancora e cita Vittorio Fo, appena scomparso tra le altre cose. Vittorio Fo, che mai recriminò contro i coetanei che facevano carriera mentre lui languiva nelle prigioni fasciste, verso la fine della sua vita ruppe il suo riserbo. Non so perché, bene perché diavolo lo faccio. E scrisse: non uno di questi illustri antifascisti aveva detto una sola parola contro la cacciata degli ebrei dalle scuole, dalle università, dal lavoro, contro quella che è stata un'immonda violenza. Queste parole di Vittorio Fo, che viene usate da Pierluigi Battista per dire, insomma, non ci fu solo la Chiesa ad avere un colpevole silenzio, ma tutta la società, sia progressista che moderata. Ed ora dobbiamo, come vi avevo annunciato, invece occuparci del tema politico per eccellenza di questi giorni e di oggi in particolare, perché basta guardare alcuni titoli giornali. Libero titola in prima pagina: frana la sinistra, compagni nel fango. Il Riformista titola: un partito alla sbarra. Il giornale titola La nuova Tangentopoli travolge il Partito Democratico. Ed ancora Il Manifesto, titola Nel Pozzo, perché c'è una tangente a proposito del petrolio e quindi, insomma, ecco la figura di Walter Veltroni che si staglia. Ora, le chiavi di lettura sono tante e diverse, ce n'è una provocatoria, andremo a vedere. Intanto ci sono interviste, per esempio sulla Stampa viene intervistato Claudio Martelli che dice, Claudio Martelli che peraltro, ve lo dico così, ho visto prima, è diventato collaboratore del quotidiano Libero e si occupa da oggi quindi dei temi anche tra le altre cose della politica e della giustizia. Dicevo, Claudio Martelli è intervistato dalla Stampa, mi ricordano il PSI e rischiano la nostra fine, questo dice Claudio Martelli e conferma, dice, vede analogie tra la vicenda del PSI allora e quella del PD di adesso, c'è un'analogia di carattere strutturale, poi ancora dice, c'è il rischio secondo lei che il Partito Democratico alla fine salti? Penso proprio di sì, ed è un rischio tanto più grande quanto più il Partito Democratico rimarrà nell'ambiguità, dice Claudio Martelli alla Stampa. Ora, vi dicevo, a parte qui viene Tonino, quindi Antonio Di Pietro viene definito la seconda lega, l'Italia dei Valori continua a erodere consenso, uno su cinque lo preferisce al PD, vi è un'intervista al Francesco Rutelli che dice basta navigare a vista, Veltroni apra un nuovo corso, noi senza rotta e Tonino vince. Ma c'è anche una provocazione di Lucia Annunziata che così inizia il suo pezzo. E se fosse proprio Di Pietro il leader che gli elettori del Partito Democratico vorrebbero? Domanda provocatoria ma necessaria per provare a uscire dalla ripetitività della discussione interna al PD. Al voto in Abruzzo il PD in tutte le sue componenti ha risposto con la lettura di sempre. Il dualismo Veltroni-D'Alema, il nuovo contro il vecchio, la necessità di fare piazza pulita della vecchia guardia e con lo stesso dilemma dell'ultimo anno. Rompere o no con Di Pietro? Se è tutto quello che il centro-sinistra riesce a dire sul proprio declino, ha davanti una sola possibile conclusione, la rottura tra PD e Di Pietro. E o dentro il PD fra Dalemiani e Veltroniani, ma anche fra ex popolare ed ex DS. Insomma, dice, una spaccatura in un organismo così fragile scuoterebbe come un terremoto tutti gli equilibri che ora rimangono a stento in piedi. Ed è quindi una provocazione, dire, insomma, magari è davvero il nuovo leader. L'America azzera i tassi, invece questo è il titolo principale del quotidiano La Stampa. Tremonti, fondi UE contro la crisi, Fiat più lunga, la cassa integrazione, vedremo, torneremo su questa vicenda sul Sole 24 Ore. Intanto c'è Mario Draghi che scrive servono nuove misure. Negli ultimi mesi il quadro è passato rapidamente dal rallentamento dell'economia alla recessione, dallo shock dell'offerta a quello della domanda, dall'inflazione ai rischi di deflazione. La nuova situazione richiede non solo ulteriori più coraggiosi interventi, ma anche un passo avanti, scrive il governatore della Banca d'Italia, nel livello di cooperazione e intesa fra gli attori della politica tanto a livello nazionale come internazionale. Queste le principali sfide macroeconomiche che ci attendono. Questo il quotidiano La Stampa. Vi dicevo che però le chiavi di lettura sono tante e diverse a proposito di Antonio Di Pietro e del suo ruolo politico dopo il terremoto politico e non solo giudiziario dell'Abruzzo. Per esempio il giornale quasi, insomma, avanza l'ipotesi che Antonio Di Pietro voglia quasi scalare dall'interno il Partito Democratico. Scrive Paolo Guzzanti, Tonino, il virus che vuole soltanto manette per tutti. E così la profezia si è avverata, i pieni riempiono i vuoti e spesso li riempiono con materiale tossico. Di Pietro sta divorando dall'interno il Partito Democratico di Veltroni, Abruzzo docet e ne occupa lo spazio. Il suo materiale tossico è una sorta di estremismo di tipo leghista, della prima ora, unito all'antiberlusconismo psichiatrico, forsennato emotivo, invettivo e dunque di grande presa comunicativa. E ancora Peppino Caldarola scrive Walter, leader condannato a farsi mangiare il partito. Ecco questo concetto che riemerge in Abruzzo Di Pietro si è mangiato mezzo Partito Democratico, se si votasse in tutta Italia il pasto sarebbe completo, metà del PD è in subbuglio, scrive Peppino Calderoro sul il giornale. Daremiani e Marignani vorrebbero denunciare l'alleanza con l'ex PM, i prodiani vogliono rinsaldarla, seraficamente il gran cerimoniere di Veltroni, Goffredo Bettini, dichiara: non abbiamo nulla da rompere perché non c'è nessun matrimonio con Di Pietro. Paradossalmente ha ragione lui, ed è quindi tutta una però l'idea è questa, appunto: Veltroni è condannato a farsi svuotare il partito dal giustizialista Tonino. Addirittura, ecco, sul giornale però c'è un'ipotesi di Laura Cesaretti, così che firma questo articolo: il sospetto c'è Di Pietro dietro i magistrati, nessuna dietrologia o ricerca di regie occulti dietro all'Africa di inchieste che sta colpendo il PD, dice Goffredo Bettini, ma che ci sia un attacco politico verso il partito che passa anche per l'aggressione dei media, questo è il coordinatore del PD, è certo. E insomma, quindi diciamo che passa in questo dibattito molto, come dire, molto di tensione, passa anche questo. Ora dice invece Sergio Chiamparino, intervistato sempre al giornale: mi aspettavo il KO, con i dirigenti in cena, non si può vincere. Il sindaco di Torino dice: se il PD non cambia, dopo le europee le correnti andranno sole. E invece c'è Berlusconi che esulta contro la crisi: diamo segnali di ottimismo, le mosse del centrodestra. Il quotidiano Libero, titola Compagni nel fango, il quotidiano Libero affida a Vittorio Feltri, che commenta quello che sta avvenendo: chi di PM ferisce, di PM perisce, e a guadagnarne è solo l'ex PM che infatti in Abruzzo ha raccolto messi di voti trasformando l'Italia dei Valori da partito di nicchia in in una potenziale corazzata in grado di procurare altri danni alla sinistra, di cui è alleata grazie alla stoltezza politica di Walter Veltroni. Al PD sta toccando la stessa sorte che portò all'annientamento di Democristiani e Socialisti tra il 92 e il 94, è la tesi di Claudio Martelli. Ma scrive ancora Vittorio Feltri a proposito di Antonio Di Pietro: quando Veltroni ebbe l'idea di staccarsi dall'estrasinistra per presentarsi col solo PD alla politica antiquata di primavera, nessuno immaginava che all'ultimo momento avrebbe imbarcato l'Italia dei Valori. Di Pietro, piaccia o no, ha il vento in poppa e i suoi numerosi critici farebbero meglio a prenderne atto, almeno allo scopo di fronteggiarlo con argomenti più seri rispetto a quelli in uso contro di lui nel Popolo della Libertà. Inutile seguitare a dire che egli è eversivo, che il suo linguaggio è intollerabile, che il suo italiano approssimativo non serve, le sfumature estetiche non interessano a chi è scocciato, disperato, nauseato dalla politichetta del passo avanti e due indietro, del fare a parole e non fare in pratica, della mediazione a ogni costo, della sconcertazione del dialogo tra sordi. Sbaglia chi pensa di sollevare i movimenti di protesta appellandosi al buon gusto, al galateo e alla benemerita. Accademia della Crusca, scrive Vittorio Feltri su Libero. Qui non è questione di congiuntivi e di consecutio temporum, ma di cose concrete, di programmi da realizzare. E questo è quindi questo è un monito che, dice Vittorio Feltri, va sottolineato anche nei confronti del Partito del Popolo della Libertà. Un partito alla sbarra, questo, come vi dicevo, il titolo del quotidiano di sinistra, Il Riformista. Dimezzato, smarrito, inquisito. E c'è una tesi anche qui, Andrea Romano la esprime in un commento: Veltroni e compagni si facciano da parte. Cavalcare la sconfitta, il segretario del Partito Democratico usa la debacle abruzzese per lanciare una rivoluzione interna e azzerare gli avversari, ma è il primo a essere sotto processo, nuovi arresti a pescare Potenza, scrive Andrea Romano. Dopo il tonfo elettorale d'Abruzzo, sulla strada del PD c'è un cadavere da sgombrare, ma non è quello del solito Veltroni, è il corpo inerte e collettivo di quello che dovrebbe essere un gruppo dirigente, se solo mostrasse di reagire agli eventi come un qualsiasi essere vitale. Al vertice del Partito Democratico si attende invece di il compiersi della catastrofe nella più totale passività, perché ognuno è convinto di poter ricavare il proprio piccolo tornaconto dal corso naturale degli eventi. Insomma, beh, è abbastanza severa questa indagine, questa analisi di Andrea Romano, che dice invece hanno i dirigenti attuali del Partito Democratico hanno un anno di tempo per trovare nuovi leader. Questa in realtà è la proposta che viene dal riformista. E il balbettio politico dei democratici, scrive ancora Chicco Testa, l'analisi di Michele Salvati è lucida. Per come la leggo io, essa ci dice che il PD è un animale irrisolto, con un unico sostanziale gene unificante. Oggi come ieri, l'anti-berlusconismo, troppo poco, già all'origine della breve infelice esperienza dell'alleanza di governo dei due anni precedenti, quando il centrosinistra deve assumere l'onere delle proprie proposte, balbette, si divide o tace. Sì, forse è il caso di dire che dice, l'anti-berlusconismo è stato proprio invece quello di Antonio Di Pietro, diverso il caso del Partito Democratico. Anche un quotidiano come il Manifesto è molto severo con Walter Veltroni. Gabriele Poli, il direttore, scrive: non si può fare nella notte della sinistra, dopo gli scandali di Napoli, Genova e Firenze, sul Partito Democratico si abbattono le inchieste di Pescara e Potenza. Avviene mentre l'Abruzzo, in un indicativo trionfo d'astensionismo, passa al PDL. In elezioni anticipate per un'altra inchiesta, quella che ha cacciato Del Turco, ora rifugiato a destra. Sarà la magistratura a stabilire quanto di vero c'è in tutto questo. Individualmente ciascuno degli inquisiti è innocente fino a prova contraria, ma politicamente i cittadini la condanna l'hanno già emessa e potrebbe essere finale, dice. Doveva essere un partito leggero o liquido il Partito Democratico, che si sta dissolvendo o liquefacendo. Veltroni pensava di poter fare a meno di un progetto generale di società e ha finito per perdere il controllo dei particolari che compongono l'agire politico quotidiano. Questo scrive e parla di De Profundis Gabriele Polo sul quotidiano Il Manifesto. Ora, a parte che voglio osservare che l'Avvenire enfatizza molto ovviamente le parole di Sacconi: acqua e cibo non si possono togliere, si blocca il piano per trasferire Eluana a Udine, e il giornale cattolico, come dire, come vi dicevo, dà grande spazio, tant'è vero che apre la prima pagina su questa notizia. Atto di indirizzo sul trattamento dei malati in stato vegetativo rivolto a tutto il Servizio Sanitario Nazionale, naturalmente da questo è particolare, come avete sentito la GR, un grande dibattito. Ora io però volevo passare al Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore si occupa invece dei grandi temi dell'economia internazionale, della grande crisi che, e come avete sentito dai GR, i titoli sono: scende a zero il costo del denaro USA, mossa storica, i tassi Fed a 0,025, Wall Street più 5,1%, e abbiamo sentito che Draghi dice servono altre misure anticrisi, e ancora il centro studi Confindustria ci annuncia, l'abbiamo sentito anche questo, la recessione fino a metà 2009. E sempre sulla prima pagina, beh, intanto Riccardo Sorrentino parla del coraggio di Bernanke, mentre Franco Locatelli firma un articolo, un commento piuttosto critico, e che andiamo a vedere. Sarebbe davvero curiosa che di fronte alla grave recessione che l'Italia sta vivendo, la liquidità di cui l'economia reale ha assoluto bisogno continuasse a restare ferma nelle stanze ministeriali solo perché il Tesoro e le banche non riescono a concordare i criteri applicativi del decreto anticrisi di fine novembre. La crisi che stiamo attraversando è già piena di paradossi, scrive Franco Locatelli su Sole 24. Ma il fatto che non si riesca a sbloccare il decreto che prevede un rafforzamento patrimoniale delle banche in funzione di un maggiore sostegno alle imprese è da Guinness dei primati. Di fronte a una recessione che rischia di accompagnarsi per buona parte del 2009, il minimo che si richieda a una classe dirigente degna di questo nome, scrive Locatelli su Sole 24 ore è che la velocità delle decisioni sia adeguata alla gravità della situazione. L'adozione del decreto di fine novembre lasciava intravedere una nuova consapevolezza, ma i dissidi, ecco qui è importante perché mette in evidenza una cosa che è un po' nascosta, diciamo, dai giornali, ma i dissidi tra governo e banche sulle modalità operative del provvedimento sembrano ora riportarci nella più fitta delle nebbie. Sono passate più di 2 settimane dall'approvazione del decreto e i suoi effetti non si sono ancora visti, ma ciò che invece si vede, come ieri ha segnalato ancora una volta il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, sono preoccupanti segnali di restrizione del credito e di crescente difficoltà delle imprese, soprattutto piccole, ad approvvigionarsi dei finanziamenti di cui hanno bisogno. E insomma, questa è una richiesta molto imperiosa da parte del Sole 24 Ore. Dice, insomma, non possiamo in questo momento fermarci ai dissensi tra governo e banche per liberare liquidità. Il Sole 24 Ore oggi cita anche un servizio di Moria Longo e Antonello Olivieri dagli Stati Uniti, la FIM Advisor e il fondo Kinggate. L'uragano Madoff si è abbattuto anche al 20 di St. James Street a Londra, qui a sede la FIM, guidata da 2 italiani, Federico Ceretti e Carlo Grosso, che distribuire il fondo Kinggate, uno dei tanti gestiti del bancarottiere USA. FIM ha perso 160 milioni di dollari, di ben 2,1 miliardi è invece il rischio Madoff dell'austriaca Bank Medici, partecipata da Unicredit. Questo è quanto leggiamo sul Sole 24 Ore, e adesso mi fanno segno che il nostro tempo è concluso, quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento domattina.